ascolto. Andò bene per il momento. Prima di aumentare, guarda la differenza con inserendo la modifica del microfono. Così c'è la modifica o non c'è, adesso non mi ricordo la posizione del pulsante. Dimmi tu cos'è successo. Sembra più alta. Prova a fare due passaggi, così vediamo un po'. Allora, se sembra più alta così c'è la modifica. 1, 2, 3, così è senza, 1, 2, 3, 1, 2, 3, così è con la modifica 1, 2, 3, 1, 2, 3, senza aumentare dal microfono. Posso lasciarlo anche con la modifica e aumentare anche dal microfono, vediamo un po' cosa succede. Adesso c'è la modifica, provo a aumentare e vedere. Ok, allora, vabbè, i numeri qua non si leggono perché, vedi un po' così, così è a 3 credo. Va bene. Va bene, non distorce. No, negativo, va bene. Ok, sì che se aumento portandolo così. Non sta distorcendo. Ma sta aumentando, sì. E io. Ok, allora aspetta un secondo che entro nel menu qua. Guarda, aumento dal mic gain, te lo porto a metà. 50%. Ok, adesso aumenta il mic gain. Vedi un po'. È sempre buona la radio. Sempre buona, no? Sì che posso aumentare dal mic gain 70%. 70, vedi un po'. Non strappa, va bene. Ottimo, ottimo per la truffa. Mentre se aumento così dal microfono sta aumentando, sì? Sì, si sente però un bel molto rumore di fondo e dovresti tenerlo più basso. Anche se la modulazione va bene. Si sente il rumore della stanza, da, perché amplifica un po' quel microfono, è un casotto, è come il tiro mio. Questo abbiamo fatto la modifica, ma non la classica che si fa dei ponticelli delle resistenze. Allora lo abbasso così, lo lascio così allora. Mi sa che si intende, perché c'ho l'audio scoop inserito anche, sto controllando appunto se sente la televisione anche. Ehi, si sente tutto, è per quello che ti ho detto di abbassarlo, perché si sente il rumore della stanza, no? Che c'è la televisione. Ehi, guarda così, così ho abbassato ancora, aspetta. Allora, così a 0, così a 1, 2, 3, 4, 5, vedi un po'. Ieri gli ho fatto le connessioni perché c'erano le connessioni di AESU del 1200. Ora gli ho fatto questo per provarlo. Cappa Roggero, che si adatta bene a questa radio. Io lo grido. Sì, certo che si adatta a quello. Allora, e così sono senza modifica. Cambia parecchio, no? Forse è meglio senza modifica, ormai conoscente di la stanza. Amplifica troppo con la modifica, capito? Sì. È un coso, gli avevo messo un condensatore dentro. Solo che gli devo mettere più un po' più in basso forse. Ma vabbè, già si può regolare dal microfono. E infatti. Chi è Pagheva? Ma Capagava però. Capagava è a Sintino, ma manda Drew Video. Passigeno, se mangiano un chilo di melanzane. Andà bene mela. Franco non si è sentito, la frase ha agito, scendiamo appena c'è caffè, organizziamo, agito di Natalino pure. Così ben inteso. E chi Manuele? No, Franco. E io, mamma mia. Verre tan Franco. Ehi, perché stavo scendendo l'altro giorno, siccome sono andato a farmi le analisi per il centro diabetici. Mi ha detto, guarda, verso le 8 devo scendere verso Platamona. Mi ha detto, sì, vieni, ci prendiamo un caffè. E gli ho detto, guarda, oggi non fa. Gli ho detto, ma domani, gli ho detto, che sarebbe stato ieri. Gli ho detto, volentieri. senti, Villa Natalina, scendiamo, ci prendiamo un caffè, una birra, ci beviamo qualcosa. Però poi non si è più sentito. Ci sono dei suicidi, ma anche io l'ho sentito, quindi non sapevo neanche di questa cosa di Platamone. Manuele sarà in mezzo alle baleoliche. Giulio! Quello lì è dormito e che lavativo quel Giulio. Bubu. Lui esce all'improvviso, esce, gatta, e adesso sarà addormentato, sarà. Chi è che pagava, mi? Frango, Frango. Ciao Luca, ciao, buongiorno. Vabbè, Fra, c'è anche Natalino, buongiorno. Sì, ciao, ciao Natalino, buongiorno. Io ho visto scena in campagna per mangiare il cane e poi risalgo. Cavagava. Bene, mi ascoltate in quelle terre della Sardegna. E a Puglia. Tutto leccato, sì. Ma cosa sta dicendo? Luca, non ci crede che è leccato, mi. E allora, mi piace. Non ce ne ecco qua, non ce ne è, capito? Ciao, secondo me è tua. Anche. Sei stato a morte. Perché c'era la pentola accesa, non me ne accorto. Cavagava. La devo usare in distanza, se no è un casino. Questo. Quindi ho medi fatti in vicinanza, capito? Ma lasciala stare quella segretaria, Dio buono. Ma adesso io la segretaria l'ho staccata, capito, Natalino, cavagava. Ma cavagava. Bene, bene, sì, sì. Al cuore, Ramono, mi sta arrivando, al cuore. Tutto cavagava. Tutto sotto controllo, cavagava. Io sto scendo con l'antenna di gomme, capito. Adesso sono quasi arrivato nel corso di campagna, non so se mi ascoltate ancora, Già ti ascolto, forte e chiaro. E sto volando sempre con la cosa, capito? Faccio per la caricata. A vedere cosa dicevo. Anda bene, Neira. Adesso mi ho tolto l'eco. Sì, ma già va bene anche con l'eco quello tuo, capito? Perché questo qui è un baracchino cavagava. È birichino questo qui. Che tu mi faccio macchina io sono a te, chi ti metti in compagno? Chi cavagava, metti in compagno, ma io dopo ne vado, ma lo lascio così, no, tanto di nero non ne faccio niente. Questo è cavagarino, tutto con l'inverbero, sì. Cava parecchio, tutto reverbero, coppa! Così con l'azione, c'è un secco e andava. Adesso Luca ha detto che me lo dà, gli do 7 euro, quel baracchino con l'elicottero. Cava Franco, qua tutto sganciato, coppa! L'elicottero non vi neghi, non è ancora aereo, Puglia. No, quello di Luca già ce l'ha l'elicottero. Sì, già lo so. Vabbè. Ma quelle sono radio che vanno bene, ma camion, capito? A casa se pongo su è un casino. Con quello puoi fare cavagava proprio. Così le televisioni diventano i biondi da. State sotto a casa, vuoi vedere quello roccio, pronto? Chi sa curi belli dritti nesci? Sì, no. Tutta la televisione reverberata, vede. Capo! Meglio niente, meglio niente, capito? No, è bello, già è bello, ma magari uno che fa l'autista e c'è il camion, va bene, però a me non è che mi sta le sabbie di tanto, va. Preferisco sempre la radio normale, capito Natalino? Un po' di eco, vabbè, ma quando poi è troppo esagerato, va bene. Ormai io la patente non ce l'ho più, se no me ne ero andata a fare il camionaro. Utile, cappa. 7,50 Natalino non lo vuole più perché ha detto se no quello di sopra ti dà il bastone in testa. Cos'è Luca? Da Carino, 7,50 euro, non lo vuole più Franco, perché ha detto che quello di sopra, se mette il bigliettino così, gli tira il bastone. No, ha detto che se metto l'elicottero prende la moletta direttamente. Si dice che l'antenna direttamente. Allora, ciao, ciao Franco. Ciao, ciao Franco, va bene, dai, allora ci aggiorniamo per quel caffè famoso, dai. Quando vuoi, come vuoi, capo. Giulio, ci sei? Quello è Domita. Hai visto il video? No. È che me lo... a metà me lo interrompe. Cosa cavolo sarà, lui? E cosa? Il video? Ehi, ne manca, mi dai, mi interrompe, mi rungava, bru. Boh, ma lasciamo finire di caricare, magari sta caricando ancora. Ah no, caricato era. Strano. Non mi ripassi i video. Molto strano. Eppure mi fa così. Arrivato a un certo punto, track, me ne lo attacca. Ma tutti, anche quello ultimo che ti ha mandato. E tu che mi hai mandato là, l'ha già mai dato, Anzula. E me l'ha troncato. Non so cosa dire. Non c'è memoria nel telefono, magari. No, nel computer, adesso lo metto a andare, quello che mi ha mandato l'ultimo. E mi l'ha tagliato. È strano. Prova a guardarlo dal telefono invece. Aspetta, provo. Magari hai la connessione. Io uso il telefono per quando devo usare il computer, la connessione. Perché mi rimangono un sacco di giga intanto ogni mese, così che... E vabbè, ma è strano, cazzo, che non mi faccia vedere il video, capisci? Me lo fa vedere, aspetta. Vabbè, fra, c'è anche Natalino, buongiorno. Ciao Natalino, buongiorno. Io ho visto che c'è la campagna, e poi si lavora. Ah, ma questo è un 25 euro. Sì, io. Hai anche questo baracchino, 25 euro, questo che hai visto nel video, me lo sto dando. Questo 25 euro, che prende baracchino, l'altro, quello con l'ecco, 50 euro e si porta via tutti e due, aiuto. Magari. Ti piace questo? Quello è bello. Caccia, una miriade di funzioni. Guardati l'audio scoop, che bello che è. Quello per tenere sotto controllo e controllare anche gli altri, capito, che ascolti. Cava, cava. No, dal telefono mi arriva di vedere, invece dal computer mi ritaglia, in una lavona. Allora la connessione. E a pensare che io guardo il video, per esempio, YouTube dal computer, tramite la connessione del telefono, me li fa vedere benissimo, capito? C'ho la chiavetta qui collegata nel computer, che fa da modem, e praticamente uso la connessione del telefono. No, prima dovevo pagare Tiscali, sorba il computer che lo trattava una voce ogni voce di babba. E invece in questo modo uso sia per uno che per l'altro e mi rimangono un sacco di giga pure a fine mese. Ma me lo fa solo su WhatsApp, gli altri me li fa vedere. Prova a disinstallarlo lì dal computer e reinstallalo. Guardarci che sia magari corrotto qualcosa. Magari qualche aggiornamento. Perché solo su WhatsApp che mi fa questo difetto? Ma te lo fa nel computer solo. Sì. Prova a disinstallarlo, se non te lo faceva prima. O cerca l'aggiornamento di sul computer, l'aggiornamento di WhatsApp. Bisogna baldare la situazione. Attento, Giulio! Ho in giro, gatta, chi su? Magari è in giro, non si rispondi, ma cosa non si intende che è in giro? Questo non lo so manco io, la verità. A chi entra all'improvviso? Ma poi ci ha fatto 2 ore d'acqua, che bello entra, poco all'onfio. Infatti. Entra già sapendo il discorso, sicché lui sta sempre in ascolto. Allora, non ci vuol dare udienza, quello è. Franco, oh Franco, dove sei arrivato? No, è andato in campagna a dare da mangiare al cane. Povaraccio Emanuele, gatto, naggio, burla lastima, sarà a Cabassoro in Chivi, povaraccio, che mamma mia, ci sono travagli vero, E ancora non per calcio. Infatti, quando va di calcio non si può chiare. Guarda la foto che ti ho mandato di questo MB4, peccato che gli manca la cosa, il suo adesivo originale. Infatti l'aveva messo non male, non di più, vedi che l'ho riverniciato. Sì, già l'ho visto, anche il volume, la parte del volume gli ha messo diverso. Perché insomma ce l'avevo. E quello è un pomello di coso, di condensatore variabile. E vabbè, meglio di niente. Sì, ma era messo malissimo. L'importante è che funzioni. A voglia. Poi se funzionava bene, gli ho fatto la modifica. Però non lo uso quasi mai. L'avevo attaccato qui sul coso, sulla IAES, sul 1200. KK, ma anche qua già va bene. E te credo. E sul 1200 cosa c'hai? Sul 1200 avevo attaccato il 60, adesso non c'ho niente. Non c'ho niente, perché 60 lo stesso gli avevo fatto il cavetto e lo sto sempre usando con questo. Carriera. E intanto uso l'altro, capito? E infatti. Poi questo è piccolo, più compatto, che ci sta più roba qua, adesso qua sopra. Il 1200 è enorme, cazzo. È 2 volte questo. Io ho la V508, il Turner più 3 e l'MC60 più questa. Il 508, la V508 esce bene, no? È quello con l'equalizzatore in basso. No, quello senza, quello normale. Non mi ricordo come si chiama quello che ha l'equalizzatore e tutte le cose. No, questo è normale. A me può essere l'MC60. Aspetta, sto cercando. Costano pure poco quelli lì. Il 508 adesso costa 78 euro. Si assomiglia un po' all'SM20, dai. E c'è il doppio attacco, c'è l'attacco ICOM e quello Kenwood lì. Sì, RG, sì. E chi si attacca il RG 45 sono? Sì. E già escono, dovrebbe uscire bene. Probabilmente escono meglio con un mixer, quelli, con un equalizzatore. Ma io lo usavo sul 725. È un preamplificato, sì. Capsula ristretta, eccetera, eccetera. Chiara. Io ho avuto il 726 nuovo, adesso quindi come comprarlo da negozio, dentro la scatola nuovo, Virgin Blue che me la viene dato. Però in AM no, non andava. Non ve ne andai qua. Pensa che è nuovo, adesso vuol dire come avrò comprato da negozio. Pensa che di quanto me ne interessava l'avevo scambiato per un 140, se puoi immaginare. Il era impeccabile, è stato comprato e lasciato provato e è rimesso dentro la scatola, capito? Quindi sul polistirolo tutto. Il 72C, sicuramente in AM il nome è Zia Bruca, che non uscia come doveva uscire, e allora l'ho scambiato per un 140. Qui a Sassari stesso. E capa. No, il 725 va in AM. E anche quello va, tutti vanno, ma non vanno come può essere un 140, ma neanche, capito? Ma proprio parlando premi il 140, che il 140 va 100 volte meglio in AM27, io parlo di un 725, di un 726, eccetera, capito? Ehi, vabbè, però in banda laterale sono paurosi. Ho capito, ma cosa te ne vai di un baracchino, di una radio che va in banda laterale, che in banda laterale non vanno quasi mai, o mai addirittura, cioè, io preferisco avere una cosa che funzioni bene in AM, capito, e meno in banda laterale, alla fine. Il mio funziona bene in AM e anche in banda laterale, quello che ho io va benissimo. Poi nuovo nuovo. Lo so, ma non spingo, non è che non vanno bene, non spingo. E il mio spinge pure, perché lo metto io a metà il macchinese, il bongamanetta spinge anche troppo, quello che ho io. Che adesso mi ricordo, quel modello lì non c'ha neanche compressore o comunque processore, non agisce in AM. No, non ne hanno quelli lì. Lo so, anche questo. Sotto solo il 706 spingeva, perché aveva il compressore, il 706 che agisce anche in AM. Infatti, se ti ricordi, quando ce l'avevo, cazzo, era una cosa allucinante il 706 quando mettevi il compressore. Mentre questo e il 726 non ce li hanno. Cioè, questo ce l'ha, ma agisce solo in banda laterale, capito? Questo qua ce l'ha. Ma agisce solo in banda laterale. Qua c'ha, puoi giostrare col mix, c'ha un mixer, questo che c'ha solamente due cose da regolare, basta, capito? Bassi e alti, sia in trasmissione che in ricezione, però non agisce il compressore in AM. E chi sei, una trubianetta, Sono un radio, insomma, che sono sprecate per usarle qua. Ma quando le usi in ascolto e in altre cose, guarda, ti dà tante di quelle soddisfazioni, guarda, incredibili. È quel che, siccome vanno bene anche qua, si può fare uno e l'altro. Infatti, chi sono da me, chi su chi vai tu? Poi, certo, devi cercare i microfoni adattati, tipo le semi-20, per esempio. Se ti muove a provare microfoni, però lui c'è un parente da lui, finché non trovi quello che è, me ne ha fatto in nulla, pavissimo, cioè 60, di più 4, c'ho anche l'M600, quello che c'ha l'eco in beep, quello non l'ho mai provato qua, né qua e né sul 1200, ma perché non mi interessa proprio? Non mi piace, anche se darsi che va a me. Ho capito. E c'ha l'eco, il beep, quello lì, l'M600. Ha già capito. Oh signore. Allora va giù i microfoni, bello, non va giù l'apparecchio. Sì, bella butti dura. Attacca il 725, dove ne ha fuga. No, che no, che sa che vengano lui. Non è inteso, non fa. Tanto se te lo trovano in bella vista, mi pare che i gasini sono sempre insieme. Sì, infatti. Per stare con la paura, Natalia, è inutile averle e non usarle. Sì, infatti, non è quello. Invece per se sei sicuro che non disturbi a nessuno, li puoi usare tranquillamente. Io ne ho tolto tutto proprio, ma cosa non... Già, non stavo più né ascoltando, nulla. Tutto fuori dai piedi. Ti metti un SDR, attaccato al computer, intanto il computer ce l'hai sempre acceso, ti metti un SDR, una chiavetta, mi baggio anche 3 o 4 io, devi seguire il SDR. Comode, belle, perché ci sono dei programmi veramente bellissimi, Natali, con tanti, una miriade di funzioni che guardano, tieni sotto occhio tutto quanto. ma non mi piace assai il SDR, la verità è giriglia. e con tutto che c'ho il computer sempre acceso qua. Invece guarda, io le ho messe, vabbè, io come monitor c'ho un televisore 32 pollici, scherzi, immaginate già di quanto è grande la schermata quando metti un SDR oppure quando c'è la radio collegata al computer. No, è una cosa bellissima, perché c'hai uno schermo gigante, capito? Sì, già lo so, ma qui poco posto c'è. Poi non va gli antenni, io e chi so è il problema. Lì tu vuoi buoni, una verticale vuoi buoni, oppure se riesci a salire sul tetto come stavi dicendo, ti buono di polo, così messo così sotto l'antenna, capito, e sei a posto. Se riesco a salire sul tetto, allora sì che si può fare. Sì, ma lui cosa ha, un soppalco prima di arrivare al tetto, cioè come ha chiuso questa cosa? Ha cavato una ottola e ci ha preso di Dio, e ha salato così. Ha fatto un sottotetto, ha fatto. Che fuga. Ha salato tutto, cazzo. Dice che da uno sgabuzzino può aprire lì, a quanto mi ha detto. Poi bisogna vedere se lo guardi, e chi so è Luca. Sì, bisogna che lo guardi, perché se deve rompere il sottotetto, magari ha fatto a cartongesso, chissà, con un legno, deve rompere quello, deve fare rompere i legni, perché se ci ha messo le tegole ci ha messo i legni, deve togliere i legni, mettere la botola. Che non te ne vado in altra lì, che non interessa più di tanto, non credo che faccia tutto questo lavoro. Ma neanche la televisione può, neanche l'antenna della televisione è nuova, si può mettere lui se non lo fa. È vero. Vabbè, tu proponi, tu dimmi se nel caso già ce l'ho io la gente per fare il lavoro, tu dimmi così, che capito, che se te lo fa fare e non vuole spendere lo vemmo, e lui ha detto che l'apre, poi bisogna vedere. Ah, bisogna vedere cosa mi dici. L'antenna è tornata poi su come intera. Sì, vedo, gli attrezzi, il materiale, c'è tutto, per personale, per tutto. Dimmi che così mi siamo noi a Bria Sarrato, deve naturalmente, poi non so, per la botola dovete mettervi d'accordo, se comprare la metà per uno, perché quegli abbaini costano. E poi basta togliere due tegole e poi le rimette e non c'è da mettere neanche la botola, secondo me. Ah, quello sì, quelle tegole si mettono là sotto, spesso, se non volete mettere la botola. Ma ti avrebbe fatto più comodo, però, vero? Infatti, si può fare anche così. E allora, tanto sempre da Edo deve entrarmi, fa pure a fare un'altra gabbissuglia. Ha detto che mi aiuta lui a piazzare l'antenna, boh, io mi... Gli posso comprare i sciaffi per piazzarli e boh. Cosa vuoi ti dica? Il tubo gli metto questo che c'ho qui sotto, che è bello rigido e nuovo e zingato. Ehi, diglielo che se serve una mano, beh, da solo non credo, cioè, che lo faccia da solo, ci vorrà un aiuto, no? E penso di sì. Adesso se lui lo fa, io già te lo dico, lui, certo. Chi su dubbo è 4 metri alto, ma buon che non tagli su dubbo fatto. Ehi, poi gli attrezzi, seghe circolare, molette, battelle elettriche, vabbè, molto, se chi su di segui non ci manca, capito? Tu diglielo, quando lo vuoi fare, prima possibile, così gli dici, prima lo facciamo, meglio per me e per te, così vedi la televisione in buio. Infatti. Dove c'è l'antenna sua, la buttiamo via, quella lì, compriamo un'antenna nuova con un palo nuovo, si mette, va. Cazzo. E almeno quando chiudiamo non ci dobbiamo più salire sul tetto. Il cavo glielo do io nuovo, quello che avevo comprato, c'è il cavo nuovo, rugavo vanno. Almeno non deve comprare manco cavo. E infatti più che altro dovresti allungare il tuo, però così è, perché poi non ci arrivi più col cavo. Già ce l'ho uno spezzone qua, di VG213 nuovo, mai usato. Cazzo. L'allongo, nel sacco da no che l'allongo pensa a quando bassa. E da poi riposto un barilotto e andendi. Sì, perché non vorrei esagerare, ma secondo me un 6 metri, 4, dai 4 ai 6 metri ti servono in più, minimo, bisogna poi dover aver messo l'antenna. Sì, 4 metri quindi uno, in più. Ma infatti è meglio che ci sia una persona appunto che le sa quelle antenne lì, no? Non che lo, come ti dice lui, che te la piazza lui, cioè nata lì, non lo so, Ah, ho già preso qui quando rubemmo, cosa cazzo è tu non lo sa fanno? Cioè, lo può pure saper fare, ma io non mi fido. Se lo posso, fare la cosa. Se no non mi costa niente mia cambiarlo il capo del tutto. Cazzo. Beh, lui devi vedere tu. Io li ho sempre saldati i capi, non ne ho mai messo barilotti. Se proprio dovevo fare un'aggiunta, li ho saldati bene e poi tutti belli isolati. Capito? E funzionano a grande lo stesso, non c'è perdita, non c'è niente, però bisogna farli bene. Infatti. E poi ci vogliono un 5 metri di capo massimo. In più. Il barilotto Mattesi 30 e mobile vuotone, noi perché lo porto dove c'è la finestra, questo cavo di qua, lo allungo fino a fuori e basta, io penso. Aspetta, guardo la fotografia. Poi viene il cavo, non c'è problema. Forse non ci vuole neanche il, come cazzo si chiama, il barilotto. Ce n'è cavo in più. Allora, io sto guardando la foto. Dunque, l'antenna è lì, sicché da lì andare sul tetto sono almeno altri 3, dai 3 metri di cavo. Andare lì proprio su quel tetto. E poi si vede quell'antenna di televisione che c'è sopra lui, quella lì, la tua? No, la sua, Ma allora, dunque, salendo da quel tetto, poi si può mettere in quel torrino le staffe, giusto? Subito all'angolo anche allora. E allora, lì è meglio. Ma quello è un altro palazzo, non è che ti dicono cose a cui? Come? Ho detto, quello è un altro palazzo, non è che ti dicono cose a cui? No, è un palazzo mio, un torrino mio lo metto. Ma quello che si vede, quel torrino lì, è roba dell'altro palazzo, dove in pratica lui c'è l'antenna della televisione, non è del vostro palazzo. No. Nel torrino l'antenna sua è nel torrino del palazzo nostro, però se lui la vuole cambiare deve per forza togliere le tegole e salire sul tetto. A chi l'antenna è fratica, bisogna 40 anni. Vera, l'antenna di mia moglie lì e me ne è caduta in testa per poco, mi piace bideggia, che si è facciato burro baru, si è frasigato, è caduta nel vicolo. Me ne sono accorto io perché ho sentito questo rumore e mi sono spostato perché ho visto l'antenna e ne stava scendendo, la sola, ne accesa, completa. Comincia a ridentare, si è fatta i millibitti. Certo, ma poi ci vedono una piccola direttiva a quattro elementi. Una antennata di televisione girata a testa in giù. Sì, ma quell'antenna che dici tu, che è la sua, quella lì si vede che è ancorata nel torrino dell'altro palazzo proprio. No. E a fianco all'antenna del baracchino mia l'antenna sua. A fianco all'antenna del baracchino? Sì, non è vero. Questo guarda sul tetto lui. E lì non la vedi. Però in carriera no, via si vede chi s'antenna. Un pezzo. Ed è vicino all'antenna del baracchino mio. E quella che si vede sul tetto di chi è? Lì proprio sopra dove abita lui. Ehi, è lì in quel torrino l'antenna sua, della TV. E si lavò pure in nuova, lì mi fa fatto aprire la gabbia chiude. Infatti ti sto dicendo, quello è il torrino dell'altro palazzo, non è un palazzo vostro, lui è ancorato nel torrino dell'altro palazzo. Sì, ho visto, No, non può sì, nell'altro barazzo non entra un cazzo, l'altro barazzo. Non entra nulla lui. La mia antenna della TV è nel palazzo a fianco addirittura. Perché io non potevo salire sul tetto e un inquilino di quel palazzo lì me l'ha fatta mettere nel suo palo. Di quel palo del palazzo giallo, quello a fianco? No. Sì, quello a fianco. Infatti c'è un'antenna che ha 4 antenne, sono 2 mie e 2 di quell'inquilino. Però nel palazzo mio c'è l'antenna sua ancora. Quella di mia moglie me ne farà da in cabba giù mai. A che la pratica, 40 anni vera. Se è praticato un baro, buru, e ne farà da in terra, ne farà da. Chissà di mia moglie. Chissà di farci che un baro magari è ancora buono, però l'antenna è pratica. Sì, volevo entrare qualcuno, vediamo un po'. Un attimo, Natale, mi assento. Vediamo un po' se intanto entra qualcuno. C'è qualcuno che vuole entrare sul 10? Io posso entrare? Sì, sempre. Non c'è bisogno neanche di chiederlo. Buongiorno, buona domenica, signor Giulio. I miei ossequi. Ricambiato il tutto al 100%. Buona giornata e buona domenica a te e famiglia. Ciao, Natalino. E allora, deciso hai cosa fare con questa antenna? Ma lui dice che apre il tetto e la piazziamo sul tetto l'antenna. Così ha detto e così ci sono di gente. Fa ora ma detto, fa ora di dopo di gente, caro Giulio. Adesso l'antenna è torna come era prima, anzi è legata anche meglio. Ah, ho capito. Finalmente si sta convincendo allora questa specie di persona odiosa a lasciar fare il lavoro come deve essere fatto. Porca miseria, ma quando mai nella vita ci debba essere ancora della gente nel 2023 così ignorante? Non è possibile, guarda, non è possibile assolutamente. Eppure c'è e danno fastidio, perché danno fastidio agli altri, alle persone intelligenti. Se c'è stata gente che diceva, quando non parlavi tu al baracchino io la vedevo bene la televisione, quindi la guippa a prescindere era mia, secondo Rugabu Deddy. Non arriva neanche nei pratichi, no, la guippa è mia. Sì, ma il bello è questo, che tu glielo dici, no, questa gente è talmente radicata l'ignoranza nella loro mente, nel loro cervello, che non accettano nessuno ragionamento da parte di nessuno, da parte di chi gli dà un consiglio, eccetera. Non perché uno vuole essere superiore ad un altro, no, nella maniera più assoluta, ma è anche ovvio riuscire a intendere, a capire che dopo tanti anni qualsiasi cosa ha bisogno sempre di un aggiornamento, e loro questo non lo vogliono capire, soprattutto quando si tratta di roba metallica come può essere l'antenna. Frasica è, frasica rimani, magari si vede anche con un pezzo di fil di ferro, oggi lo butti sul tetto e si vede, però è sempre una cosa così non fatta come si deve. Per cui se poi hai dei problemi non ti lamentare, il discorso è questo. E lo so, giù, purtroppo questa gente non ci può ragionare, non ragiona. Se quella di mia moglie me ne è scesa in testa per poco, a chi si è praticato un rubare a mezzo mio, no? Ho sentito questo rumore, cazzo, già stato rugato, manco male, mi sono deputato, se no mi riesce abitato, in carrera ne farà da, completa. Ma è così, dopo tanti anni, è ovvio, il metallo si arrugginisce, si lavora e si rompe. Caspita, è già una grande cosa, anzi, si dovrebbe fare sistematicamente ogni certo periodo di tempo, controllare, perché queste cose diventano anche pericolose. Basta un colpo di vento, passa una persona per strada, le rigaggi in capo e dice ai bideggia, non va bene, non va bene, ma tu vai a farglielo capire a certa gente, no, non è possibile, guarda. non è possibile nella maniera più assoluta. Tu gli puoi aprire la testa, gli metti le parole ben dette, ben sistemate dentro la testa, non lo comprendi. Non lo capisco, no. Se ne farà da rasura a chi di quanto era marcio il palo, ha ceduto e ne è scesa l'antenna completa. Come ti arrivi da in carriera, si è fatta i mille bezzi. Beh, lo credo, è chiaro. Adesso tu immaginati se fosse caduta addosso ad una persona, anche se è una cosa non molto pesante, però caduta dall'alto, diventano quintali, diventano. Per cui diventa molto, ma molto pericoloso per la gente che ci passa per strada. Ma non va, è utile, è come c'è pizza, Eva Rubitoni, la stessa cosa, non c'è mai niente. Se c'ero io, stavo passando io quando è caduta l'antenna di mia moglie. Infatti noi avevamo una di quelle antenne logoperiodiche in facciata per poter vedere la televisione. Però, e cosa vi dico? Poca roba. Infatti l'antenna nuova che ho io del televisore è nell'altro palazzo, perché io su questo tetto non ci potevo salire, e allora mi ha fatto un favore un inquilino del palazzo a fianco, che mi ha fatto mettere le mie due antenne della TV nel suo palo, capito? Io ce l'ho nel palazzo a fianco l'antenna mia. Ha già comprato una matassa di virus, la giubia fadda e la gente la druvila in ogni. E funziona. Beh, certo che funziona così, glielo grido. Ma è la posizione sua, è quella, non c'è niente da fare, è da mettere su. Non si può applicare così in maniera irrisoria, perché sono maniere proprio irrisorie quelle, lavori fatti da certosino, non da persone competenti. Deve essere installata a dovere. Ogni lavoro deve essere fatto, eseguito in maniera professionale. Se uno non lo sa fare, si deve cercare una persona competente, pagare e lo fa fare il lavoro. Purtroppo vai due e ragiona con certa gente, no, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, soprattutto poi più anziani sono e più tonte diventano, non è possibile. Ho aggiustato l'impianto TV a mezzo vicolo io. Mi rivela niente, va via, solo il polo caldo attaccato e la massa non era la sua, mi detto chiaro chiaro. E gliel'ho dovuto controllare io, per forza disturbavo. Se tu c'hai l'impianto che non è fatto bene. Io l'antenna mia sono andato a Fusaro, me le ho comprate, le ho piazzate, ho piazzato l'amplificatore, tutto quanto. E l'abbiamo messo nel palo di quel vicino che mi ha fatto il favore. Mi ha fatto. E con tutto che ho l'amplificatore io, non disturbo la mia TV. Quindi segno evidente che l'impianto è stato fatto bene. Ma certo che è così che deve essere, quando è fatto bene problemi non ce ne possono essere. Purtroppo, ripeto, la gente è ridotta meglio dell'aino, quando tu gli dici una cosa non c'è niente da fare, hanno sempre ragione. Purtroppo non c'è niente da fare, con certe mentalità così da ignorante, perché sono ignoranti, abbatami, o se sei tonte, sono pure ignoranti. Per cui ti puoi immaginare, lo so in che situazione ti trovi quando tu hai certe cose, certe lamentele da parte di questa gente, già lo so qui. Purtroppo così, non è ancora compresa, ragazzi, perché tutto si sta di bicio, è una montagna di garraggio, io ho sempre detto così, è una montagna di garraggio, è da rivedere tutto, soprattutto quello che c'è sui tetti, la prima cosa da vedere è proprio quello che c'è sui tetti, perché lo sappiamo benissimo, quello è tutto esposto alle intemperie e si logora in poco tempo, in pochi anni, per cui bisogna sempre intervenire e fare le cose come si deve, ma vai due a farvela comprendere a te traienti. E cosa vuoi che ti dica io, Giulio, purtroppo è così. c'era quell'uomo vecchio che c'aveva l'impianto tutto messo male, tutto. Ma via, l'amplificatore che era buddente e che era sovralimentato, i cavi, i leni nella centralina in casa sua, che mi è rimasto il capo in mano. Io ho ripristinato tutto io, Sabrina aveva solo il polo caldo attaccato e la massa non era la sua, e allora gli ho messo a posto anche quella. Signora, chissà chi è a fianco a noi, Rumattesi, chissà era tutta butta male. Aspetta un attimo, stanno suonando. Ok. Luca, eccoci qua. Giulio? Sì, da lì. Ehi, mi avevano suonato che dovevo dare roba a una persona. Cosa ti voglio dire? Aghida, addirittura l'ha risintonizzato il televisore e l'ha imparato a sintonizzarsi. A chi è da non usa mia va? Figurati un po' gareddo. Poi dice che non sono gentile. Cazzo, non l'ha compreso. La buona volontà c'è di aiutare le persone. Però se dopo, se dopo ti trattano in questo modo. Ma purtroppo è così, non hai capito, ripeto, un po' la dontigila, soprattutto l'ignoranza, oltre ad essere il fatto che no, sono anziane, persone anziane, magari che lo comprendono in un accidente, però è anche soprattutto l'ignoranza, perché non ascoltano uno che ne sa più di loro, che gli può dare un consiglio al riguardo. Fai di così e non prendi la va, tu lo vuoi come sì, in mille maniere, non lo dici a come sì, per cui già lo sappiamo come funziona, ma comunque speriamo bene. E infatti si è due abbrighi si deuri e dici ma c'è un'altra cabistudia. Abbiamo sempre in Sudorino che ve e abbiamo venuto di soffrire. Sia io che Eddo, anch'io, mi regalo pure un capo nuovo che faccio. L'importante è che si compri un'antenna, tanto ce ne vuole una sola adesso. Un'antenna nuova, se la mette nelle sue staffe, col palo, nuovo, e lui è a posto e non deve più rompersi le scatole. E infatti è così che deve essere. Sì, lo so, oggi basta anche un'antenna, anche se io ne ho due sempre, però per la televisione basta una oggi, io lo so, c'è quella che prende sia l'uno che l'altro. Ma di mio amico, io le avevo cambiate quando c'era un paio d'anni fa e le avevo messe tutte e due nuove, ma ancora non c'era il discorso della G5 e balle varie, per cui ho dovuto mettere quella, eccetera, eccetera. E va bene, non è che io poi tra l'altro ne ho due io antenne della televisione, una da una parte e una dall'altra, una che mi alimenta la parte alta della casa e l'altra che mi alimenta la parte bassa. Sicché se vuoi immaginare che potrei anche una eliminarla e utilizzare solo una per tutta la casa, ma mi si è considerato che ce l'ho da tanti anni, così la lascio, non mi gusta niente a me tenerla sul tetto due antenne, una in facciata e una di fianco, per cui va bene così. E infatti giù i miei bulli sono nuovi, l'antenna da giubilare di nuovi, ma usano la più chissà la log periodica, quella spina di pesce in facciata, ma cosa vuoi pigliava chissà? A chi era in facciata? Noi era un'altra gabbiciuria, era in basso, e quindi ho dovuto provvedere. Ho comprato le antenne nuove, proprio quelle per il digitale terrestre, e le ho piazzate. Beh certo che sì, è ovvio. Io di tanto in tanto le do una controllatina e vedo quale sono, in che stato sono, controllo anche il regolatore, accidenti, mi dimentico sempre come si chiama, vabbè, qua dove sono attaccati i fili che scendono pure alla TV, che non me la metto mai, come se li chiama, non l'amplificatore, no, nemmeno il partitore, no, nemmeno quello, non mi ricordo come si chiama, mi sfugge sempre quel nome, chissà fa cosa, boh. Miscelatore, si chiama miscelatore. Ehi, lo so come si chiama miscelatore, ero qui, lo so, non gli ho piazzato una centinaia, ma mi dimentico sempre quella parola, chissà cosa. Miscelatore di segnali, sì, sì, sì, che poi sono U e V, per cui c'è quello che ho usato io, c'è quello con più dB di uscita e quello con meno dB, per cui utilizzo l'uno o l'altro e va bene. E poi tra l'altro puoi mettere anche due discese volendo, ma comunque avendo due antenne io non abbatto all'altra, che è sempre doppia, è sempre V e U lo stesso, è V e U dall'altra parte, si crea in tutto la quattro antenne, due V e due, HF e due UHF, e va bene così, ma ripeto, io già me la giuro privata, conto mio, la giù battallate, ma tant'anni, figurati se non li posso mai me, ui. Vorrei vedere la tariffa. Infatti, ci dovrebbe essere Luca qua, ci dovrebbe essere, c'era perlomeno, se non se n'è fuggito, che è sempre col saldatore in mano quello. No, con la graticola adesso, www, cappa Roger, no, mi sto iniziando a cliccare. Ma io fai vumo, fossi. Non ho mai riputo, vai. Ciao Giulio. Allora la tua era portante prima. E allora. E non mi dire che c'era l'alternata, perché si è rotta la sfida di quell'alimentatore, ora devo contare pure, per cui è già staccato. No, non me ne dici che cosa a me, perché tanto non ti grido. Finalmente ti sei rotto. Tu ti ripresi che vai in casa, mai andiamo a attaccare a Natale una cosa che dati qualche video alla radio, ma che immaginate? Hai pina di fasciata, che è roba ginesa sicuramente. Questa specie di carica, ricarica batterie, questo funghetto, tu non ci crederai, beh, entrando la spina dentro la presa si è rotta, un gambo si è rotto, da voi l'altro l'ha sdoccato appena con le mani e si è tagliato un muro l'altro, sicché adesso devo sostituire la spina. E poi devi vedere il filo di alimentazione, io non l'ho mai visto così, manco il filo dello telefono, dei campanelli è così sottile, ma quando mai che i cinesi sono così degraziati a risparmio, dice sì, costano di meno, ma forse si manda nella mondezza, ma forse costa di meno, ma caridai. Ma oggi è tutto cinese, tutto, oggi è tutto cinese, il made in Italy, per carità, non mi pare un esecutivo. Anche i motori delle lavatrici, di qualsiasi cosa oggi è tutto cinese, da voi Bonini, però la macca di Ramonini, indesitti di Ramonini, capito? Però le motori vanno in Cina, io via. Ehi, al gioco, ma tante cose, ma caridai, e poi ci sono pure le automobili cinesi, attenando, no, finché si può utilizzare la macchina a combustione così, è sempre meglio utilizzarla, tu che macchina elettrica, se si vende a mezzo guarnire che la batteria si è fasciata. Oh, vai Natali. Ti voglio vedere se andando a Caglietti si vede magari a Oristano la macchina. E si avvende freddo e magari pure nei weekend, tanto va, fa anche una bella situazione, ma dai. Non è possibile, la macchina elettrica, la bicicletta andava elettrica, non la macchina, a parte lo fatto che costa un doppio di quanto costa una macchina a combustione, no? Prima di tutto, sicché non riesce a comprendere, i tagliette sono veramente convinti, so, che nel 2030 tutti quanti ci possiamo cambiare la macchina, che ci sarà naturalmente, non credo più, visto considerato con i brici che vanno, e paghi su quando ne rimanda, quando ne regalano si sono vivo sempre, se sono vivo quando ne le tolgono le macchine già vado a piedi. E fai bene, e fai bene. E se lo servemo un monopattino con le cuscinette, come ti vado candidato di Sindi, se servemo un monopattino con le cuscinette, così fermo pure a brutto quando passiamo per strada. Vero Luca, tu non hai mai usato un monopattino? Non ho un inventore elettrico, monopattino. C'ha due batterie da 24. Sì, la cuscinetta di Marcello, fatto dalle cose dei pedali, i tacchetti delle pedane e lo stesso la legna delle pedane. Ho sentito delle sovramodulazioni, non so, Natali tu sei, cosa sei combinando? No, io non sovramodulo nessuno. Sarà Gianni, magari è entrato Gianni che parlo di due veloce e aveva sovramodulato, cosa ne so? Ma sentivo il concetto però. Però dovresti pure ascoltare un po' la radio, anche io ti sento un po' carino, un po' carino cattedrale, ti intendo, oh Luca, cosa sei convenendo con questo microfono? Giù, no, l'MB più 4 ho messo qua, ma mi ha detto Natalino che andava bene, boh. Va bene, sì, però la modulazione non è chiara, non è la voce tua, è poco parole, cosa vuoi che ti dica? Vabbè, comunque, già ti capisco ugualmente, dai. Vuol dire che sarò più attento alle parole che dici. Vero, Natali? Aspetta, giù. Avanti, blu, va blu. Va. Allora, aspetta, se io abbasso qua, allora, se aumento qua, va meglio o peggio dalla radio? No, è un battato che va in bocca, tendere il cavallo, un battato che va in bocca. Anche noi la voce in due, Agita. Non dico incomprensibile, ma quasi, guarda, perlomeno qui mi arriva così. Aspetta, guarda così invece. Peggio? Forse è meglio quando hai detto peggio, dai, prova di nuovo. Quando hai detto peggio però. Sì, in questa maniera, guarda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prima era così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, poi così. Vedi un po', non so. Sono arrivato a 60, non è che mi pongo assai. Così è Luca, non è delle migliori comunque, ma già ti capisco, però non è delle migliori, è la verità. Avanti Natali. Un attimo che c'è un QCC verticale qua. Giulio? Sì, avanti, così va bene, vedi, così va bene. Vabbè, questo è 60, ho rimesso 60, no, ho fatto le connessioni ieri all'MB più 4, però... Sì, la classica modulazione dell'MB più 4, chissà, vabbè, devo provare qualche capsula. Qualche capsula di telefono ci potrebbe essere. Vabbè, no, comunque, come la voglio, perlomeno quel baracchino lì non si addice molto, dai, come perché rimane troppo così mi rimane. Dunque, non dico che non sia comprensibile, però è proprio pessima, perlomeno io ti sento così. Beh, adesso vi ho rimesso le impostazioni nella radio di quando c'era 60, sicché va bene adesso con 60, no? Ciao! Sì, così va bene, no? 60 no, non si discute, ciao, va benissimo, va bene anche con le impostazioni che hai messo adesso, così va bene. Ciao Tore, dove sei? Sì, ho preso il campo per fare un giro, tutto va bene, già lo sai. Sì, qua arrivi benissimo. Ma ancora qua sotto sì? No, sono già sulla Budivudi, adesso ogni tanto ti parla per vedere dove arriviamo. A voglia, stai arrivando benissimo qua. Vabbè, sei vicino. Giulio, un attimo che vado a controllare il fuoco, che devo sistemare bene la legna che c'è dentro. Alla griglia. Attisa il fuoco, dai. Attisa il fuoco e mettila al rosso. E quando è pronto chiama? Chi sei tu che non ti ho riconosciuto? Sono Tore, l'amico di Luca. Tore, l'amico di Luca, così hai detto? Sì. Ah, ho capito, lasciami terminare di parlare, perché se no non mi puoi sentire. Perché se tu premi quando io ancora non ho finito non mi puoi sentire. Ho capito, dai. Ma Luca ti sta insegnando a modulare. Sì, ma l'ho piantato da poco. Oggi lo stavo provando. Ho capito, già va bene, già stai uscendo bene, non c'è problema. La modulazione già è buona, non è fortissima del radio, però già è buona, no? Già si capisce bene quello che dici, capito? Prenditi sempre il tempo, una volta che ho terminato. tanto io di parlare, aspetta 5 secondi e poi parli tu, così almeno non ci sovramoduliamo, se no non ci possiamo capire l'uno con l'altro, capito? Sì, questo lo sto capendo piano piano, poi non mi senti bene perché sono in movimento. Vabbè, anche se sei in movimento si sente meno ugualmente, perché no? A meno che uno poi a un certo momento si trovi in una zona d'ombra, allora può essere che non riesco nemmeno ad ascoltarti, però anche se sei in movimento in linea di massima ti sento sempre, a meno che non vai molto, ma molto lontano da dove sono io, quello, ma se parliamo di chilometri, stiamo parlando di chilometri allora. Capito, va bene. Adesso vediamo come funziona, adesso ogni tanto già mi metto a parlare e vediamo il dove arriva, adesso sto scendendo a Porto Torres, adesso alla testa Bagatella. Ho capito, sì, no, ti sento meglio, ti sento anche meglio, perché adesso in linea d'aria praticamente sei alla mia direzione, io sono sulla 131, tu sei alla parte del Budi Budi e io sono alla 131, per cui sei ancora in posizione migliore rispetto a come eri prima, magari quando eri lì verso la Tedolce eccetera, capito? Ma avevi detto, ti chiamavi Tore, così ha detto, se mi ricordo bene. Sì, Tore, ero proprio sotto casa di Luca, per quello forse non mi sentivi bene, adesso forse perché è aperto. Sotto casa di Luca, io c'ero un quel bar alla Tedolce, magari ci si passasse lì all'agraria. Tanto tempo fa, adesso è 10 anni chiuso. Già lo so, sì, ti sentivo bene, ma ti sento bene anche adesso, non c'è problema. Ti sento bene, anche se il microfono è un microfono normale, però ti sento benissimo, chiaro, non c'è problema. Sino a questo momento, anche il segnale è abbastanza buono, per cui sino a questo momento siamo in una posizione ideale, sia l'uno per l'altro, sia tu per me che io per te. Adesso Luca ci sta facendo la carne, mio, come pronto ci chiama? Oh, Luca, è poco non è in grado, tutto lui si mangia sempre, lui sta sempre arrostendo, però poi non invita mai nessuno. E poi sforza anche, mi ho bevuto anche il bicchierino pure, te ne immaginate che razza di carattere di persona. Non ci dà per penso, mangia questo, quello che vuole. E allora, è per quello che pesa 130 kg, pesa già, ce lo credo, sì. Va bene così, e d'altronde nella vita cosa vuoi fare tu, se no, non mangiare almeno, per cui non c'è problema, bisogna mangiare, bisogna nutrirsi, perché se no il sacco è vuoto, non rimane in piedi, dritto, non rimane da solo. Tra un po' se non ce ne trovano anche almeno quello continuiamo a mangiare, se ce ne trovano anche quello, tra un po' quelli politici, guai. Appunto, se no, tra tasse, multe, balle, se ne togli a mangiare, allora addio. Comunque stai attento anche alla polizia, perché se ti trova con il microfono in mano, già lo sai, è come avere il telefonino. Sicché dai uno sguardo, oltre alla guida, dai uno sguardo sempre in lontananza e guarda la polizia, non farti beccare con il microfono in mano, perché se no sono dolori, capito? Fai bene, così almeno non ti diverti, sia tu che le bambine, certo che sì. D'accordo, dottor, dai, fatti sentire allora, se ti appassiona questo hobby, fatti sentire, non sei il benvenuto in questa nostra passione che è la frequenza della 27. Ciao dottore, grazie, allora sempre da chiacchieratina alle prossime, dai, buon divertimento. Ok, ciao dottore, buon divertimento, ciao. Ciao Giù, buongiorno, sono entrato a salutarti. Oh, ciao Gabi, ben arrivato su questo canale 10, tutto bene? Sì, no, ti ho sentito, mio, ho acceso 10 minuti fa e dai, ti ho sentito e sono andato a salutarti, dai, che sto facendo cosa? Ci risentiamo alle prossime, ciao Giulio, buona domenica. Ok, ciao Gabi, grazie per essere entrato a salutare, ci sentiamo alle prossime, tu lo sai, la notte io quando voi fate questo vi ascolto, sino quasi alla, quasi, sempre, sino alla fine, dai. magari all'inizio può darsi che non ci sono all'inizio del vostro QSO, però dopo un po' di televisione già sono sempre con la cuffia indossata e vi ascolto. Ma boh, ciao Gabi, alle prossime, dai, grazie ancora per essere entrato a salutare. Ciao Giù, ciao, buon pranzo.